Ad alta voce, Ermanna Montanari legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. L'idea di una Macondo peninsulare prevalse per molto tempo ispirata dalla mappa arbitraria che disegnò José Arcadio Buendía al ritorno dalla sua spedizione. La schizzò con rabbia, esagerando di mala fede la difficoltà di comunicazione, quasi per castigare se stesso per l'assoluta mancanza di buon senso con la quale aveva scelto il luogo. «Non arriveremo mai da nessuna parte», si lamentava con Ursula. «Dovremmo marcire qui per tutta la vita, senza ricevere i benefici della scienza». Quella certezza, ruminata per vari mesi nello stanzino del laboratorio, lo portò a concepire il progetto di trasferire Macondo in un luogo più propizio. Ma questa volta Ursula prevenne i progetti febbrili del marito. Con un segreto e implacabile lavoro da formichina, mise su le donne del paese contro la velleità dei loro uomini, che cominciavano già a prepararsi al trasloco. José Arcadio Buendía non seppe in che momento, in virtù di quali forze avverse, i suoi progetti si andarono irretendo in un intrico di pretesti, di contrattempi e delusioni, fino a trasformarsi in illusione pura e semplice. Ursula lo osservò con innocente attenzione e provò perfino un po' di pietà per lui il mattino in cui lo trovò nel suo stanzino appartato, intento a parlottare a denti stretti dei suoi sogni di trasloco, mentre collocava i pezzi del laboratorio nelle loro casse originali. Lo lasciò finire, lo lasciò inchiodare le casse e apporvi le sue iniziali con uno stecco inchiostrato, senza fargli alcun rimprovero, ma sapendo già che lui sapeva che gli uomini del villaggio non l'avrebbero assecondato nella sua impresa. Solo quando cominciò a smontare la porta dello stanzino, Ursula si arrischiò a chiedergli perché lo faceva. E lui le rispose con una certa amarezza: «Dato che nessuno vuole andarsene, ce ne andremo noi soli». Ursula non si turbò. «Non ce ne andremo», disse, «restiamo qui, perché qui abbiamo avuto un figlio». «Non abbiamo ancora un morto», disse lui. «Non si è di nessuna parte finché non si ha un morto sottoterra». Ursula ribatté con dolce fermezza: «Se è necessario che io muoia perché gli altri restino qui, io morirò». José Arcadio Buendía non credette che la volontà di sua moglie fosse così rigida. Cercò di sedurla con il fascino della sua fantasia, con la promessa di un mondo prodigioso dove bastava gettare qualche liquido magico sulla terra perché le piante dessero frutta secondo la volontà dell'uomo e dove si vendevano a prezzi di stralcio ogni sorta di congegni contro il dolore. Ma Ursula fu insensibile alla sua chiaroveggenza. «Invece di continuare a pensare alle tue strambe manie di novità, devi occuparti dei tuoi figli», ribatté. «Guardali, tali e quali agli asini». José Arcadio Buendía prese alla lettera le parole di sua moglie. Guardò dalla finestra e vide i due bambini scalzi nell'orto assolato ed ebbe l'impressione che solo in quell'istante avessero cominciato a vivere, concepiti dallo scongiuro di Ursula. Qualcosa successe allora dentro di lui, qualcosa di misterioso e definitivo che lo sradicò dal suo tempo attuale e lo portò alla deriva in una regione inesplorata dei ricordi. Mentre Ursula continuava a scopare la casa, che ora era certa di non abbandonare per il resto della sua vita, lui rimase a contemplare i bambini con uno sguardo assorto finché gli occhi gli si inumidirono e si li asciugò col dorso della mano ed emise un profondo sospiro di rassegnazione. «Bene», disse, «digli che vengano ad aiutarmi a togliere le cose dalle casse». José Arcadio, il maggiore dei bambini, aveva compiuto 14 anni. Aveva la testa quadra, i capelli ispidi e il carattere caparbio di suo padre. Anche se aveva lo stesso impulso di crescita e di forza fisica, già da allora era evidente la sua mancanza di immaginazione. Era stato concepito ed era venuto alla luce durante la penosa traversata della Sierra, prima della fondazione di Macondo, e i suoi genitori avevano ringraziato il cielo dopo essersi assicurati che il bambino non aveva alcun organo di animale. Aureliano, il primo essere umano nato a Macondo, avrebbe compiuto 6 anni in marzo. Era silenzioso e riservato. Aveva pianto nel ventre di sua madre ed era nato con gli occhi aperti. Mentre gli tagliavano l'ombelico, girava la testa da una parte e dall'altra, osservando le cose della stanza, ed esaminava il viso della gente con curiosità priva di stupore. Poi, indifferente a chi gli si avvicinava per conoscerlo, mantenne l'attenzione concentrata nel tetto di palma che pareva prossimo a crollare sotto la tremenda pressione della pioggia. Ursula non pensò più all'intensità di quello sguardo fino al giorno in cui il piccolo Aureliano, all'età di 3 anni, entrò in cucina proprio mentre lei toglieva dal focolare e collocava sul tavolo una pentola di brodo bollente. Il bambino, esitante sulla soglia, disse: «Ora cadrà». La pentola era ben posata nel mezzo del tavolo, ma non appena il bambino diede l'avviso, iniziò un movimento irrevocabile verso il bordo, come spinta da un dinamismo interiore, e si frantumò per terra. Ursula, spaventata, raccontò l'episodio a suo marito, ma questi lo interpretò come un fenomeno naturale. Così fu sempre, alieno all'esistenza dei suoi figli, in parte perché considerava l'infanzia come un periodo di insufficienza mentale, in parte perché era sempre troppo assorto nelle sue speculazioni chimeriche. Ma dal pomeriggio in cui aveva chiamato i bambini perché lo aiutassero a spacchettare le cose dal laboratorio, dedicò loro le sue ore migliori. Nello stanzino appartato, le cui pareti si vennero coprendo a poco di mappe inverosimili e di grafici favolosi, gli insegnò a leggere e a scrivere e a far di conto, e gli parlò delle meraviglie del mondo, non solo fin dove arrivavano le sue nozioni, ma forzando fino all'incredibile i limiti della sua immaginazione. Fu così che i bambini finirono per imparare che all'estremità meridionale dell'Africa c'erano uomini così intelligenti e pacifici che la loro unica occupazione era quella di sedersi a pensare, e che era possibile attraversare a piedi il mare Egeo saltando da isola a isola fino al porto di Salonicco. Quelle allucinanti sedute rimasero impresse in modo tale nella mente dei bambini che molti anni più tardi, un secondo prima che l'ufficiale degli eserciti regolari comandasse il fuoco al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía rivisse il tiepido pomeriggio di marzo in cui suo padre aveva interrotto la lezione di fisica ed era rimasto incantato con la mano in aria e gli occhi immobili per aver udito in lontananza i pifferi e i tamburi e i sonagli degli zingari che ancora una volta arrivavano al villaggio proclamando l'ultima e meravigliosa scoperta dei savi di Menfi. Erano zingari nuovi, uomini e donne giovani che conoscevano soltanto la loro propria lingua, belli esemplari con pelle lucida e mani intelligenti, i cui balli e musiche seminarono nelle strade un panico di eccitata allegria, con pappagalli di ogni colore che recitavano romanze italiane e la gallina che faceva un centinaio di uova d'oro al suono del tamburello e la scimmia ammaestrata che indovinava il pensiero e la macchina molteplice che serviva allo stesso tempo per attaccare bottoni e per abbassare la febbre e l'apparecchio per dimenticare i cattivi ricordi e l'impiastro per perdere il tempo e un migliaio di altre invenzioni così ingegnose e insolite che José Arcadio Buendía avrebbe voluto inventare la macchina della memoria per poterle ricordare tutte. In un istante trasformarono il villaggio. Gli abitanti di Macondo si trovarono improvvisamente perduti nelle loro stesse strade, storditi dalla gran folla della fiera. Tenendo i bambini per mano, per non perderli nella confusione, incrociando saltimbanchi con denti corazzati d'oro ed equilibristi con sei braccia, soffocato dal confuso alito di sterco e di sandalo che esalava la folla, José Arcadio Buendía girava disperatamente da ogni parte cercando Melchiades per farsi rivelare gli infiniti segreti di quell'incubo favoloso. Si rivolse a diversi zingari che non capirono la sua lingua. Alla fine arrivò nel luogo dove Melchiades era solito piantare la sua tenda e trovò un armeno taciturno che bandiva in spagnolo uno sciroppo per rendersi invisibile. Aveva ingurgitato d'un fiato un bicchiere della sostanza ambrata quando José Arcadio Buendía si aprì il passo a spintoni tra la gente che assisteva allo spettacolo e riuscì a fare la domanda. Lo zingaro lo avvolse nell'atmosfera attonita del suo sguardo prima di convertirsi in una pozzanghera di catrame pestilente sulla quale aleggiò sospesa la sonorità della sua risposta. «Melchiades è morto!» Sbalordito dalla notizia, José Arcadio Buendía rimase immobile cercando di dominare il dolore. Più tardi altri zingari gli confermarono che effettivamente Melchiades era stato stroncato dalle febbri nelle sirti di Singapore e il suo corpo era stato gettato nel punto più profondo del mare di Giava. La notizia lasciò indifferenti i bambini. Volevano a tutti i costi che il padre li portasse a conoscere la portentosa novità dei savi di Menfi, annunciata all'entrata di un padiglione che, a quanto dicevano, era appartenuto al re Salomone. Tanto insistettero che José Arcadio Buendía pagò i 30 reales e li condusse fino al centro della tenda, dove c'era un gigante col torace peloso e la testa rapata, con un anello di rame nel naso e una pesante catena di ferro alla caviglia che custodiva un cofano da pirata. Quando il gigante lo scoperchiò, il cofano lasciò sfuggire un alito glaciale. Dentro c'era soltanto un enorme blocco trasparente con infiniti aghi interni nei quali si frantumava in stelle colorate il chiarore del crepuscolo. Sconcertato, sapendo che i bambini aspettavano una spiegazione immediata, José Arcadio Buendía si azzardò a mormorare. «È il diamante più grande del mondo?» «No», corresse lo zingaro, «è ghiaccio». José Arcadio Buendía, senza capire, allungò la mano verso il blocco di ghiaccio, ma il gigante gliela scostò. «Altri 5 reales per toccarlo», disse. José Arcadio Buendía li pagò e allora mise la mano sul ghiaccio e ve la tenne per diversi minuti mentre il cuore gli si gonfiava di timore e di giubilo al contatto col mistero. Senza sapere cosa dire, pagò altri 10 reales perché i suoi figli vivessero la prodigiosa esperienza. Il piccolo José Arcadio si rifiutò di toccarlo. Invece Aureliano fece un passo avanti, appoggiò la mano e la ritirò subito. «Sta bollendo!» esclamò spaventato. Ma suo padre non gli fece caso. Ubriacato dall'evidenza del prodigio, in quel momento si dimenticò della frustrazione delle sue imprese deliranti e del corpo di Melchiades abbandonato all'appetito dei calamari. Pagò altri 5 reales e con la mano appoggiata al blocco di ghiaccio, come se stesse rendendo testimonianza sul testo sacro, esclamò: «Questa è la grande invenzione del nostro tempo». Quando il pirata Francis Drake prese d'assalto Rio Hacha nel XVI secolo, la bisnonna di Ursula Iguaran si spaventò tanto per il suono della campana martello e per il rimbombo dei cannoni che perse il controllo dei nervi e si sedette su un focolare acceso. Le bruciature la lasciarono ridotta a una sposa inutile per tutta la vita. Non poteva sedersi se non di costa, sistemata su un mucchio di cuscini, e doveva esserle rimasto qualcosa di strano nel modo di muoversi, perché non si fece mai più vedere a camminare in pubblico. Rinunciò a ogni sorta di impegni sociali, ossessionata dall'idea che il suo corpo emanasse un odore di bruciaticcio. L'alba la sorprendeva nel patio, non osava dormire perché sognava che gli inglesi, con i loro feroci cani d'assalto, entravano dalla finestra della stanza da letto e la sottoponevano a ingiuriose torture con ferri incandescenti. Suo marito, un commerciante aragonese dal quale aveva avuto 2 figli, spese mezzo negozio in medicine e divertimenti, cercando il modo di alleviare i suoi terrori. Alla fine liquidò gli affari e portò la famiglia a vivere lontano dal mare, in un villaggio di indios pacifici, situato sui contrafforti della sierra, dove fece costruire a sua moglie una stanza da letto senza finestre, in modo che i pirati dei suoi incubi non avessero da dove entrare. Nel villaggio sperduto viveva da molto tempo prima un creolo, coltivatore di tabacco, Don José Arcadio Buendía, col quale il bisnonno di Ursula stabilì una società così proficua che in pochi anni fecero una fortuna. Diversi secoli più tardi, il bisnipote del creolo si sposò con la bisnipote dell'aragonese. Per questo, ogni volta che Ursula perdeva le staffe per qualche pazzia di suo marito, sorvolando 300 anni di accidenti, malediceva l'ora in cui Francis Drake aveva preso d'assalto Rio Hacha. Era un semplice sfogo, perché in realtà erano legati, fino alla morte, da un vincolo più solido dell'amore, un comune rimorso di coscienza. Erano cugini tra loro, avevano trascorso l'infanzia insieme nell'antico villaggio che i loro reciproci antenati avevano trasformato, col loro lavoro e le loro buone abitudini, in uno dei migliori borghi della provincia. Anche se quel matrimonio era prevedibile fin dal giorno della loro nascita, quando essi espressero la volontà di sposarsi, i parenti cercarono di impedirlo. Avevano paura che quei sani boccioli di 2 razze secolarmente incrociate patissero l'onta di concepire delle iguane. Esisteva già un precedente terribile. Una zia di Ursula, che si era sposata con uno zio di José Arcadio Buendía, aveva dato alla luce un figlio che aveva passato tutta la vita con dei pantaloni gonfi e flosci e che era morto dissanguato dopo essere vissuto per 42 anni nel più puro stato di verginità, perché era nato e cresciuto con una coda cartilaginosa a forma di cavaturacciolo e con un pennello di setole sulla punta. Una coda di maiale che non fece mai vedere a nessuna donna e che gli costò la vita quando un macellaio, amico suo, gli fece il favore di mozzarla con un marrancio. José Arcadio Buendía, con la leggerezza propria dei suoi 19 anni, risolse il problema con una sola frase. «Non mi importa di mettere al mondo dei porcelli, purché possano parlare». E così si sposarono con una festa di banda e petardi che durò 3 giorni. Sarebbero stati felici subito se la madre di Ursula non l'avesse terrorizzata con ogni sorta di sinistri pronostici sulla sua discendenza, fino al punto di convincerla a non consumare il matrimonio. Temendo che il corpulento e voglioso marito la violasse nel sonno, Ursula si infilava, prima di coricarsi, un paio di calzoni rudimentali che sua madre le aveva fabbricato con tele per vele e rinforzato con un sistema di cinghie incrociate che si chiudeva sul davanti con una grossa fibbia di ferro. Così rimasero per parecchi mesi. Di giorno lui allevava i suoi galli da combattimento e lei ricamava a telaio con sua madre. Durante la notte si dibattevano per diverse ore con un'ansiosa violenza che sembrava già un surrogato dell'atto d'amore, finché l'intuizione popolare subodorò che stava succedendo qualcosa di irregolare e fece correre la chiacchiera che Ursula fosse ancora vergine a 1 anno dalle nozze, perché suo marito era impotente. José Arcadio Buendía fu l'ultimo a essere informato dell'insinuazione. «Vedi, Ursula, cosa va dicendo la gente», disse a sua moglie con molta calma. «Lascia che parlino», disse lei. «Noi sappiamo che non è vero». Di modo che la situazione continuò senza cambiare per altri 6 mesi, fino alla tragica domenica in cui José Arcadio Buendía vinse un combattimento di galli contro Prudencio Aguilar. Furioso, eccitato dal sangue del suo animale, il perdente si scostò da José Arcadio Buendía in modo che tutta l'arena potesse sentire quello che gli stava per dire. «Complimenti!» gridò. «Vediamo un po' se quel gallo glielo farà finalmente il favore a tua moglie». José Arcadio Buendía, sereno, prese il suo gallo. «Torno subito!» disse a tutti. E poi a Prudencio Aguilar: «E tu va a casa tua e armati, perché sto per ammazzarti». Dieci minuti dopo tornò con la lancia di suo nonno, già esperta di sangue. Sulla soglia dell'arena, dove si era concentrato mezzo villaggio, Prudencio Aguilar lo aspettava. Non ebbe tempo di difendersi. La lancia di José Arcadio Buendía, scagliata con la forza di un toro, gli trapassò la gola. Quella notte, mentre si vegliava il cadavere nell'arena dei galli, José Arcadio Buendía entrò nella stanza da letto mentre sua moglie si stava infilando i calzoni di castità. Brandendo la lancia davanti a lei, le ordinò: «Togliti quella roba». Ursula non mise in dubbio la fermezza di suo marito. «Sarai irresponsabile di quello che succederà», mormorò. José Arcadio Buendía piantò la lancia nel pavimento di terra battuta. «Se dovrai mettere al mondo delle iguane, alleveremo delle iguane», disse. «Ma in questo paese non ci saranno più morti per colpa tua». Era una bella notte di giugno, fresca e con la luna, e rimasero svegli a sollazzarsi nel letto fino all'alba, indifferenti al vento che soffiava nella stanza, gonfio del pianto dei parenti di Prudencio Aguilar. La faccenda fu considerata come un duello d'onore, ma ad ambedue rimase un turbamento nella coscienza. Una notte, in cui non poteva dormire, Ursula uscì a bere acqua nel patio e vide Prudencio Aguilar vicino all'orcio. Era livido, con un'espressione assai triste, e cercava di chiudere con un tampone di sparto il buco nella gola. Non le fece paura, ma compassione. Tornò nella stanza a raccontare a suo marito quello che aveva visto, ma lui non le fece caso. «I morti non tornano», disse. «Il fatto è che non sopportiamo il peso della coscienza». Due notti dopo, Ursula rivide Prudencio Aguilar nel bagno, intento a lavarsi col tampone di sparto il sangue cristallizzato del collo. Un'altra notte lo vide passeggiare sotto la pioggia. José Arcadio Buendía, molestato dalle allucinazioni di sua moglie, uscì nel patio stringendo la lancia. Lì c'era il morto, con la sua espressione triste. «Vattene via!» gli gridò José Arcadio Buendía. «Tante volte ritorni, tante ti riammazzo!» Prudencio Aguilar non se ne andò e José Arcadio Buendía non osò scagliare la lancia. Da quel momento non riuscì a dormire bene. Lo tormentava l'immensa desolazione con la quale il morto lo aveva guardato dalla pioggia, la profonda nostalgia che provava per i vivi, l'ansietà con la quale rovistava la casa cercando l'acqua dove inzuppare il suo tampone di sparto. «Deve star soffrendo molto», diceva a Ursula. «Si vede che è molto solo». La donna era così impietosita che la prossima volta che sorprese il morto, intento a scoperchiare le pentole del focolare, capì che cosa cercava e da allora gli mise delle scodelle d'acqua per tutta la casa. La notte in cui lo trovò a lavarsi le ferite nella sua stessa stanza, José Arcadio Buendía non poté più resistere. «Va bene, Prudencio», gli disse. «Ce ne andremo da questo paese il più lontano che potremo e non torneremo mai più. Ora vattene in pace». Fu così che intrapresero la traversata della Sierra. Tempo delle tecniche difensive, delle prudenze, invece questa sorta così di stimolo e di slancio, ecco, ad andare avanti e a godersi, insomma, altri aspetti della vita altrettanto emozionali, ecco, ma non tutti basati, ecco, su questa dittatura del desiderio che, se Dio vuole, col tempo un po', come dire, almeno io personalmente me ne sono un po' emancipata, ecco. Grazie Verasani, sembra un momento molto felice per la narrativa nel racconto dell'amicizia femminile. Il pensiero corre ovviamente alla saga di Elena Ferrante, di cui molto si parla anche in America. Ecco, l'amicizia femminile come risorsa, anche quando l'amicizia, lei lo ha anticipato poco fa, presenta i suoi lati oscuri, ci sono molti momenti di resa dei conti fra le amiche, diciamo così, magari di quelli che venivano ritenuti torti, e torti forse non sono stati fino in fondo. Agnese, per esempio, a un certo punto ha il coraggio di dire a Vera che in fondo Vera non l'aveva molto aiutata quando era uscito il suo libro, e Vera dice: «In realtà volevo che tu facessi la tua strada e non ho pensato ad aiutarti perché pensavo che fosse normale che tu la facessi», ma trova anche il coraggio e la forza di chiederle scusa. Sì, Vera è una donna apparentemente, che si è apparentemente adattata al mondo in cui vive, che è molto competitivo e molto maschile anche, e quindi è una donna sempre